Chi legge regolarmente la parola di Dio si imbatte continuamente in episodi abbastanza conosciuti. Con il passare del tempo può sorgere però il rischio di perdere il messaggio che l'Eterno Dio ha voluto comunicare. Uno di questi è il racconto di un valoroso guerriero nemico del popolo di Israele di nome Naaman. L'episodio al quale mi riferisco si trova nel secondo libro dei Re, al capitolo 5, e versetti da 1 a 19. Or Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore, perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria, ma quest'uomo forte e valoroso era lebbroso. Ora alcune bande di Siri in una razzia avevano portato via come prigioniera dal paese di Israele una piccola fanciulla, che era finita al servizio della moglie di Naaman. Ella disse alla sua padrona: «Se il mio signore potesse andare dal profeta che è in Samaria, certamente egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Così Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «La fanciulla del paese di Israele ha detto così e così». Allora il re di Siria disse: «Va, pure, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vesti. Portò quindi al re di Israele la lettera che diceva: «Quando ti giungerà questa lettera, sappi che ti mando il mio servo Naaman, perché lo guarisca dalla sua lebbra». Dopo aver letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti e disse: «Sono io Dio, col potere di far morire e vivere, che costui mi manda un uomo perché lo guarisca dalla sua lebbra. Perciò state ora a vedere che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga da me e saprà che c'è. È un profeta in Israele». Così Naaman venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va a lavarti 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo egli uscirà certamente incontro a me, si fermerà, invocherà il nome dell'Eterno, il suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e mi guarirà dalla lebbra. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Farpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere mondato?» Così si voltò e se ne andò tutto infuriato. Ma i suoi servi gli si avvicinarono e gli parlarono dicendo: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa, non l'avresti fatta. Tanto più ora che ti ha detto: lavati e sarai mondato». Allora egli scese e si immerse 7 volte nel Giordano. Secondo la parola dell'uomo di Dio, la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, ora riconosco che non c'è alcun Dio in tutta la terra se non in Israele. Perciò ora, ti prego, accetta un dono dal tuo servo». Ma egli rispose: «Come? È vero che vive l'Eterno alla cui presenza io sto? Non accetterò nulla». Neipane insisteva con lui perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Poiché non vuoi, permetti che sia data al tuo servo tanta terra quanta ne portano 2 muli, perché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo all'Eterno. Tuttavia l'Eterno perdoni il tuo servo per questa cosa. Quando il mio signore si reca nel tempio di Rimmon per farvi adorazione e si appoggia al mio braccio, se anch'io mi prostro nel tempio di Rimmon, voglia l'Eterno perdonare il tuo servo per questa cosa, quando io mi prostrerò nel tempio di Rimmon». Il profeta gli disse: «Va, in pace». Naaman aveva un problema non indifferente: la lebbra. A quel tempo la lebbra era una malattia inguaribile. Chi ne era affetto era di sicuro votato ad una vita piena di sofferenza, di isolamento e a volte ad una morte atroce. Naaman aveva davanti a sé una buona carriera, una vita agiata, ma la lebbra costituiva la nuvola nera della sua vita. In un certo senso, tutti abbiamo la nostra lebbra. Tutti, infatti, abbiamo qualcosa che non va. Qualcosa che ci impedisce di essere felici, di relazionarci con il prossimo come vorremmo. Può essere un problema personale che nessuno conosce e che, abilmente, non facciamo trapelare. Può essere un problema con il nostro partner, con i figli, con i suoceri, con i parenti. Può essere un problema con il prossimo nell'ambito del lavoro, con gli amici, con la comunità che frequentiamo. La nuvola nera della nostra vita può essere una segreta paura, un'angoscia sempre presente, un senso di isolamento marcato, il terrore di perdere un nostro caro o i nostri figli. Tutti abbiamo bisogno di essere guariti da ferite, più o meno evidenti. A Naaman inaspettatamente arriva la notizia che il suo problema poteva essere risolto, che la sua nuvola nera poteva essere dissipata. Fiducioso in ciò che gli era stato detto, Naaman si dirige verso il profeta di Dio, capace di risolvere il suo drammatico problema. Il profeta Eliseo, senza riceverlo, ordina al valoroso guerriero, tramite il suo servo, di tuffarsi 7 volte nel fiume Giordano. Sentito ciò, Naaman, che fino a quel momento aveva dimostrato calma e sottomissione, si adirò e fece per tornare a casa. Cosa aveva spinto Naaman a reagire così? Perché era così risoluto ad andarsene? Rimanendo così, lebbroso, cosa c'era di più di una malattia mortale come la lebbra? Una sola cosa. Il profeta non aveva agito nel modo in cui Naaman pensava che questi avrebbe dovuto fare. Non si era comportato secondo le sue aspettative. Eliseo, il profeta di Dio, gli aveva semplicemente ordinato di tuffarsi nel fiume Giordano per 7 volte. Naaman invece si aspettava che Eliseo pregasse l'Eterno, il Dio di Israele, una concezione, questa certamente più spirituale, consona ad un profeta e al metodo di un Dio potente. Inoltre, perché fare tanta strada? Per tuffarsi in un fiume insignificante, quando nel suo paese c'erano fiumi ben più grandi e importanti? Perché fare una cosa che non rientrava nella sua logica? Perché, dopo tutto, fare ciò che diceva il profeta e non ciò che si confaceva al suo modo di vedere? Solo a seguito dell'insistenza dei suoi servi, Naaman, rendendosi conto della sua insensata reazione e delle sue inutili domande, si tuffa 7 volte nel Giordano, essendone guarito. L'episodio narrato contiene un insegnamento che non deve sfuggirci. Le risposte di Dio ai nostri interrogativi, ai nostri problemi personali o comunitari, il più delle volte, non sono come noi pensiamo. Chi legge la parola di Dio sa che questo principio non è nuovo, ma, spesso, esso lo diventa, quando si tratta di metterlo in pratica. Infatti, il più grande desiderio di un figlio di Dio è compiere la sua volontà, è conoscere il suo volere. Per questo, egli è disposto a compiere ogni cosa. Ma, spesso, succede che noi siamo pronti a compiere il volere di Dio se questo combacia con il nostro modo di ragionare, quando esso rientra nei nostri canoni o è in sintonia con quello che noi pensavamo. Siamo pronti a tuffarci 7 volte, sì, ma nel nostro fiume, non in quello che Dio ci indica. Così come l'Apostolo Pietro, siamo pronti a dare la nostra vita per Gesù, quando si tratta di mettere in risalto la nostra persona, o quando si tratta di combattere una logica, per noi logica. Ma quando si tratta di esporre la propria vita senza alcun riconoscimento, quando si tratta di darla, secondo la logica di Gesù, ecco che abbiamo dei grossi ripensamenti. Siamo pronti a morire per Gesù come valorosi guerrieri, ma non come martiri. Siamo pronti a servire Gesù finché i conti tornano, ma non quando non tornano. Eppure sta scritto: chi è cieco se non il mio servo, o sordo come il mio messaggero che invio? Chi è cieco come colui che è in pace con me, cieco come il servo dell'Eterno? Isaia 42:19. Il servo di Dio si tuffa dove Dio vuole, senza riserve. Queste considerazioni devono farci riflettere. Abbiamo un problema e desideriamo che Dio lo risolva. Preghiamo, imploriamo, bussiamo. Aspettiamo con pazienza l'intervento di Dio, abbiamo fede che Egli intervenga. Ed ecco che la situazione a volte precipita, prendendo una piega inaspettata. Dov'è? È Dio allora? Perché non risponde? La nostra fede vacilla. Passa il tempo e cominciamo a dubitare dell'amore di Dio e che Egli risponda ai nostri lamenti e ai nostri gemiti. E Dio ti chiede di tuffarci nella situazione. Come? Tuffarmi in quella situazione? Se fosse stata un'altra situazione, Signore, lo avrei fatto, ma proprio in questa? No! No e poi no. Già, proprio come Pietro. Egli era disposto a vivere secondo la volontà di Dio quando questa combaciava con la sua morale. Ma, quando Dio gli disse di mangiare cose impure, rispose, «Niente affatto, Signore». In seguito però, e per la misericordia di Dio, lo Spirito Santo ci fa comprendere quanto insensata sia la nostra decisione. Ed ecco che Egli ci parla con le parole che Elihu rivolse a Giobbe. Dio libera gli afflitti mediante la loro afflizione e apre i loro orecchi mediante la sventura. Egli vuole sottrarre anche te dal morso dell'avversità per portarti in un luogo ampio senza restrizione, con una tavola imbandita piena di cibi succulenti. Ma tu colmi il giudizio del malvagio e il giudizio e la giustizia ti afferreranno. Secce e collera, bada che egli non ti porti via con un sol colpo, perché una gran somma di denaro non potrebbe allontanarlo. Darà forse valore alle tue ricchezze quando egli ha oro e tutte le risorse della potenza? Non desiderare la notte in cui la gente è portata via dal suo luogo. Bada di non volgerti all'iniquità, perché tu hai preferito questa afflizione. Ecco, Dio è eccesso nella sua potenza. Chi può insegnare come lui? Chi mai può imporgli la via da seguire? E chi può dirgli, tu hai fatto male? Giobbe 35, 5-23. Dio è sovrano. Non solo quando le situazioni combaciano con il nostro modo di valutare. Egli resta tale, anche quando esse esulano dai nostri canoni. La situazione sgradevole, il problema, irrisolvibile, sono afflizioni che servono per liberarci da peggiori afflizioni. Ma io pensavo che Dio facesse, e allora ci ribelliamo. Noi rifiutiamo l'opera di Dio, le sue vie. In fondo al nostro cuore, pensiamo che Egli abbia fatto male. Io pensavo, questo è il nostro problema. Questo è il reale problema. Sono molti i figli di Dio che si ribellano nel segreto del loro cuore, che covano delle amarezze nei confronti del loro Salvatore. Vivono sì una vita cristiana ma piena di pesi e di rancori. Ringraziano il Signore Tausi per la salvezza, ma sono dispiaciuti e amareggiati per come Dio conduce la loro vita. Sono disposti a servire il Signore dovunque Lui dica, ma non dove si trovano ora. Sono disposti a tuffarsi in altri mille fiumi, ma non in quello che stanno attraversando. Se avessi un marito diverso, dice la moglie, che subisce il matrimonio come una sventura, nell'attesa che Dio la liberi dalla situazione nella quale si trova, e non rendendosi conto di essere diventata la moglie giusta per l'uomo giusto al momento giusto. Se avessi un marito cristiano, dice colei che vede nella mancata fede del suo partner la buona scusa per non progredire nel cammino con Dio, nell'attesa che egli la esaudisca. Se avessi il dono di quel fratello, dice un figlio di Dio, che non fa nulla, ignaro di poter servire Gesù Cristo con ciò che ha ricevuto. Io pensavo, questo è il dilemma, solo perché combacia con il loro presupposto. Gli uomini negano l'esistenza di Dio e pensano che il creato sia il prodotto del caso. Abramo pensava di dover aiutare i piani di Dio per poter avere una progenie. A questo proposito entrò dalla sua serva Agar. Samuele pensava che l'uomo che Dio si sarebbe scelto, come re del suo popolo, dovesse essere alto e attraente, ma Dio cercava un cuore retto. Natanaele pensava che da Nazareth non potesse venire nulla di buono, mentre in quella città il figlio di Dio aveva trascorso la gioventù. Nella parabola dei lavoratori delle diverse ore, coloro che avevano lavorato tutta la giornata pensavano di ricevere di più di coloro che avevano lavorato solo un'ora, ma tutti ricevettero la stessa paga. I discepoli pensavano che il regno di Dio si sarebbe manifestato subito. Ma sono trascorsi 2000 anni e Gesù deve ancora tornare. Quando Gesù ordinò a Giuda di fare subito quello che aveva nel cuore, i discepoli pensarono che egli lo invitasse a fare un'elemosina. Paolo stette degli anni in prigione solo perché i giudei pensavano che egli avesse condotto un non giudeo nel tempio. Noi pensiamo, come Naaman, che le vie di Dio debbano essere più spirituali di ciò che in realtà sono, che esse debbano essere più conformi ad un atto religioso esenti da ogni elemento non consono. Ma nella genealogia di Gesù troviamo due donne pagane, una delle quali era una prostituta. Il re che l'Eterno si scelse dopo Davide aveva per madre proprio la donna con la quale Davide aveva commesso adulterio e alla quale aveva ucciso il marito. Gesù diede le chiavi del regno dei cieli proprio a chi lo avrebbe rinnegato per 3 volte. Noi non siamo chiamati a pensare, cioè a valutare dal lato morale le vie di Dio. Non siamo chiamati a ritenere che sarebbe stato meglio che le cose fossero andate diversamente. Siamo, al contrario, chiamati ad aspettare e ad accettare il modo in cui Dio ci libera dalla situazione. Agire, aspettando. Pochi, come il profeta Geremia, hanno assistito al dramma della distruzione della città santa, Gerusalemme. Distruzione, tra l'altro, profetizzata. Ecco cosa ha scritto in merito. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Buona cosa è per l'uomo portare il giogo nella sua giovinezza. Si da solitario e stia in silenzio quando Dio glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse ci è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi di vituperio. Poiché il Signore non rigetta per sempre, ma se affligge, avrà compassione, secondo la moltitudine delle sue misericordie, poiché non è volentieri che umilia ed affligge i figli degli uomini. Quando uno schiaccia sotto i suoi piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno perverte il diritto di un uomo alla presenza dell'Altissimo, quando si fa torto ad un uomo nella sua causa, il Signore non lo vede? Chi mai dice qualcosa che poi si avvera se il Signore non l'ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Perché mai si lamenta un uomo vivente, un uomo per la punizione dei suoi peccati? Esaminiamo le nostre vie, scrutiamole e ritorniamo all'Eterno. Eleviamo i nostri cuori e le nostre mani a Dio nei cieli. Lamentazioni 3, 25-41. Buona cosa è aspettare l'intervento di Dio. Buona cosa, non discutere l'intervento di Dio. Buona cosa è stare in silenzio davanti a Dio. Buona cosa è non rigettare i canali e i mezzi con i quali Dio manda le sue benedizioni. Il popolo di Israele aveva problemi politici ed economici, aveva dei peccati morali da riconoscere. L'Eterno è intervenuto distruggendo la città, mandando in esilio il suo popolo, permettendo che degli infedeli entrassero nel luogo santo e nel luogo santissimo per profanarlo. Ma io pensavo, sì, Dio è buono, misericordioso, pietoso, potrebbe far sì che io nuoti in qualche fiume di misericordia, ma egli decide che mi debba dibattere in un fiume di sofferenza, di difficoltà, in un fiume soprattutto impetuoso. In effetti il fiume Giordano nasce ad un'altezza di 800 metri, per sfociare nel Mar Morto che si trova a 366 metri sotto il livello del mare. Per quel che se ne sa, è il solo fiume al mondo che scorre principalmente al di sotto del livello del mare. Solo dal lago di Galilea al Mar Morto si contano 27 rapide, per cui a ragione esso merita il nome di Giordano, che significa che discende. Tuffarsi in un fiume della vita che discende così impetuoso richiede fede. Il profeta Eliseo chiese al valoroso guerriero di tuffarsi, cioè chiese un atto di volontà. Tutti siamo pronti a nuotare quando ci troviamo in un mare di guai, perché in fondo si tratta della nostra sopravvivenza, in quanto o mangi quella minestra o salti dalla finestra. Ma quando si tratta di scegliere di nuotare in un mare di guai, accettando di nuotare, non come chi salvi la propria vita, ma come compagno di sventura, di rimanere uniti nella cattiva e buona sorte, allora le cose cambiano. L'atto di eroismo mi porta a compiere grandi imprese, ad essere in prima fila nel campo di Dio, perché ciò è quello che io pensavo. L'accettazione di una situazione voluta da Dio e contraria alle mie valutazioni, ai miei sogni, alla mia immaginazione, alla mia aspettativa e ai miei desideri è, però, tutt'altra cosa. Non ci resta che tuffarci nel fiume indicatoci da Dio, che è esattamente quello in cui ci troviamo. Non desiderare di avere un altro tipo di vita, di avere un altro coniuge, altri figli, un'altra comunità da frequentare, un altro carattere, un altro fisico, un altro tipo di sessualità, eccetera. Come il valoroso guerriero Naaman ha dovuto tuffarsi 7 volte, simbolo di perfezione. Così, la scelta di tuffarti nel fiume indicatoti da Dio, a volte, deve essere ripetuta. Molto probabilmente, Naaman è stato incredulo durante le prime 6 immersioni, perché nulla era cambiato, ma queste sono servite per arrivare alla 7ª. Così anche la tua scelta, apparentemente, può non aver prodotto dei risultati, ma la perseveranza porta sempre con sé dei buoni frutti. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Galati 6, 8-10. Perseveranza. Naaman è stato perseverante, anche se molto probabilmente era scettico. Alla fine però è stato premiato. Io pensavo, disse, ma alla fine ha fatto ciò che Dio gli aveva ordinato. Anche tu, alla fine, lascia i tuoi, io pensavo. Fidati di Dio, lui ti dirà, come disse il profeta Eliseo, a Naaman, va in pace. Gennaio 2003. Ellero.